Se vuoi venire a morire, a stornellare, porta del vino e metti di a sedere. Puntata numero 17 di Ratto di Campagna Topolino di Città, il programma di Radio Big World, ormai lo sappiamo, che cerca di entrare nei meandri delle città nascoste, la corte dei miracoli di Victor Hugo. Sotto Firenze c'è tutta una vita, le gallerie e le catacombe. No, in realtà no, sotto Firenze è anche difficile scavarci, tant'è che la stazione dell'alta velocità, che aveva da essere come quella di Bologna sotterranea, in qualche modo il progetto si è arenato, ma non si è arenato il nostro viaggio, la nostra barca verso le città e le metropoli, il capire come ci si comporta, il capire come si pensa, il capire come si parla, per non farsi fregare da questa gente di città che guarda molto, in particolare nelle città qui vicino a noi campagnoli toscani, guarda molto al portafoglio del campagnolo che viene lì e di solito lo pelano se uno non sa come muoversi. Ma a me chiedete ben poco, perché a me a Firenze mi hanno sempre pelato. Partivo con un sacco di soldi e ritornavo che ero praticamente in mutande. Pertanto, per sapere qualcosa di più serio, di più efficace, qualcosa che funziona, è necessario rivolgersi a chi in città ci è nato e ci vive. E per noi di Radio Big World, colei che ci guida nel mondo delle grandi città è colei che, mentre noi andavamo ancora al fiume a lavare i panni, lei aveva in casa un androide d'avvocato. Laura! Sempre io, buonasera a tutti. Laura, oggi argomento che scotta perché tanti ci si sono bruciati e anche più di una volta, ossia il matrimonio, sposarsi a Firenze. Sposarsi a Firenze, beh, ignoro come funzioni, non sono mai stato a un matrimonio fiorentino, però più o meno qui in provincia ne ho sperimentati diversi, e un classico dei matrimoni in provincia è sposarsi in chiesa, non perché i due nubendi, come scrive il sito del comune di Firenze, perché c'è un listino prezzi, i due nubendi non perché fossero persone religiose, ma perché in chiesa il matrimonio viene meglio. Come funziona, Laura, a Firenze? Anche a Firenze è importante sposarsi in chiesa, quantomeno per la scenografia, oppure come negli anni 60 che c'erano i preti comunisti e a Firenze in chiesa non ci si sposa nessuno? Allora, innanzitutto complimenti per Nubendi, insomma si vede che sono diverse puntate che fai questo viaggio cittadino con me, perché insomma ti sei evoluto anche dal punto di vista lessicale, insomma Nubendi non a caso hai detto l'hai trovato sul sito del comune di Firenze questo termine. Allora, in chiesa ci si sposa molto spesso per compiacere le famiglie, perché insomma sono più cattolici i genitori dei figli. Diciamo, man mano che le generazioni vanno avanti, la religiosità scema, e quindi insomma forse molti lo fanno anche per questo. C'è veramente chi è credente, quindi si sposa in chiesa in modo sentito. C'è chi, anzi subito guarda, ti faccio un bellissimo esempio di una coppia di miei amici. C'è chi è molto credente ma sposa una persona non credente. Ah, e allora come si risolve questo dilemma? C'ho proprio questo esempio, guarda, mi è venuto in mente orora. Lui è ateo, lei è molto cattolica, no? Si sono sposati in chiesa. con il rito misto, però sapevi che esisteva il rito misto? Ah, sì? Il rito misto? Sì. Cioè, l'asio si sorbisce tutta la messa, eccetera, però al momento della promessa lui non promette in nome di Dio, ma non lo so quale formula usa. Però è, ecco, ufficialmente un rito misto, nel senso che sembra a tutti gli effetti un matrimonio religioso, ma lo è solo per metà. E quindi così si può ovviare alle differenze religiose fra gli sposi. Poi sì, ci si sposa anche in chiesa, come ci si sposa anche in comune, forse, ecco, proprio per quel discorso di compiacere le famiglie, magari in città c'è meno parentame che chiacchiera, allora forse i matrimoni civili sono maggior numero, così dico a caso, ma insomma ha senso, probabilmente è così. Ha molto senso. E nella scelta della chiesa? Ora, il matrimonio in Duomo mi sa che è una cosa così unica quanto rara, forse solo i medici si sono sposati in Duomo, però quale altra chiesa o quali altre chiese vanno per la maggiore tra i nubendi fiorentini? Ma io no, in Duomo non ho visto mai nessuno sposarsi, sinceramente, però ho visto per esempio in centro a Or San Michele, che è una chiesa proprio centralissima, una volta un matrimonio. C'è chi si è sposato in Santa Maria Novella, ne ho sentite, però ecco no, non ho mai visto direttamente. So che invece vanno molto le chiese sulle colline, perché sono più scenografiche. Tipo San Miniato al Monte, per intendersi. San Miniato al Monte, insomma, tanta roba, sì. Vicino San Miniato c'è Santa Margherita a Monti, c'è un'altra, una chiesina molto più piccola, però immersa nel verde, anche quella insomma va tanto per chi vuole una chiesa speciale. Poi a volte vedo cinesi, giapponesi lì vicino San Miniato, io non lo so se vengono a sposarsi qui perché gli piace San Miniato perché quelli sono pure pagani, capito, bisognerebbe fermarla una coppia cinese e giapponese e dire: ma perché ti sei venuto a sposare a San Miniato? O forse solo per fare le foto al piazzale Michelangelo, non lo so. Comunque fai un giro al piazzale Michelangelo e 9 volte su 10 incontri una coppia di sposi cinesi. Guarda, quello è sicuro. Allora, sappiamo che non vanno all'ospedale, non vanno al cimitero, ma i cinesi vanno a sposarsi. Quindi non li vediamo vestiti da morto, pace all'anima di chi ci lascia. Non li vediamo con il pigiama da ospedale, ma vestiti da sposi, sì. Pensate. Laura, poi magari non sono cinesi, non lo so, forse sono giapponesi o coreani, ho visto male, però l'occhio è a mandorli. E Laura, una domanda a te non tanto come fiorentina, ma come fiorentina e Laura. Se tu avessi da pianificare un matrimonio, che ne so, fai la wedding planner, quale secondo te è la chiesa più bella a Firenze per sposarsi? Che domanda, San Miniato, dai, rimaniamo sulla più gettonata. San Miniato è bellissima anche perché c'è una visuale, che poi è quel giusto mix fra campagna e città, perché ti vede tutto il panorama, ti vedi la cupola del Brunelleschi e il campanile di Giotto, però sei circondato anche dal verde. Comunque anche wedding planner, carissimo, mi sa che dalle tue parti non si dice. Beh, no. Insomma, ti stai proprio fiorentinizzando. Da noi si dice il senzale, il mezz'uomo, come si chiama quello che fa sposare... Vedi, se non sai che vuol dire, allora mi rimangio ciò che ho detto. Il wedding planner è quello che programma tutta la cerimonia e tutto ciò che ruota intorno alla cerimonia in ogni dettaglio. E sai anche come diciamo noi in città, ma la location è importante. Ti è capitato di andare a dei matrimoni organizzati da wedding planner? No, caro, mi manca. Provvederemo, ora... sguinzaglio le mie conoscenze cittadine e mi infiltrerò un matrimonio organizzato da una wedding planner. Però sicuramente la wedding planner definisce la location, il tableau, cioè la terminologia... Il catering! Come? Il catering! Il catering si dice anche noi, anche voi poveri mortali lo dite. Sì, ormai è sdoganato anche da noi, insomma. Location fa molto, molto figo, perché è una parola che negli ultimi anni ha preso quota. Cercavo una location che sia tradizionale ma al tempo stesso innovativa, che non faccia mancare niente agli ospiti. Quindi secondo me un matrimonio cittadino organizzato da una wedding planner prevede una location fantastica. E poi 99 su 100 questa location dov'è? In campagna. D'accordo. Sai per caso dei tempi di attesa? Perché per esempio ci sono delle chiese che sono molto popolari qui da noi, usa anche da noi sposarsi sulle colline, e c'è in particolare una chiesa, una pieve romanica molto antica, e per sposarsi lì c'è una lista d'attesa di 2 anni. Addirittura, sì, comunque anche qua le più gettonate sono sì, da prenotare almeno 2 anni prima. Cioè nel frattempo i fidanzati fanno in tempo a lasciarsi, poi dopo... Come spesso succede al terzo anno. Nel frattempo però avevano speso e pagato ogni cosa, bomboniere, vestito, chiesa, e poi si lasciano prima che la lista d'attesa gli permetta di sposarsi. Immagino che però... dal punto di vista pubblico, e quindi il nostro amato sindaco di Firenze, le fasce tricolori, eccetera, eccetera, beh, essendoci tante persone a Firenze, probabilmente sposandosi in tantissimi ogni settimana, il comune e le location comunali sono probabilmente prese d'assalto. Sì, sì, sì, guarda, io ho un esempio di un matrimonio di un'amica che non voleva la sala rossa, che è la location civile più gettonata, forse anche la più economica. Allora voleva un'alternativa all'aperto e optò per il Giardino delle Rose, che è vicino al piazzale Michelangelo, però c'era solo disponibilità infrasettimanale. Non so se per la disponibilità di domenica doveva aspettare non so quanti anni, forse. Però mi disse che doveva sposarsi per forza di martedì. E io gli dissi: guarda, che di Venere né di Marte non si sposa né si parte. Dice: fu un bellissimo matrimonio perché il Giardino delle Rose, insomma, è una bella cornice con appunto veduta sulla classica cartolina fiorentina, però poi si sono separati dopo 2 anni, forse mi ha portato tanto bene. Però diceva che appunto sala rossa non le piaceva, la mia amica non le piaceva, voleva altre location, e ce n'erano 3 o 4, Giardino delle Rose, poi Villa Bardini, abbiamo detto, insomma... ci sono alternative simpatiche alla location più classica. Dentro la sala rossa sei mai andata? Com'è fatta? Non sono mai stata, Sai cosa, Giorgio? Se te ora ti sposi, vai a fare un matrimonio a Firenze, così dopo. Così ampliamo la nostra cultura. Allora, sarà così anche in tantissime grandi città, per carità, non discuto, da noi ci si sposa nel salone dove fanno il consiglio comunale e rizzati, per carità, bello, affrescato, il palazzo trecentesco, tutto quello che ti pare, però insomma la location è una, chiappa quella c'è, però... Firenze ha addirittura un mercato delle vacche sul matrimonio civile, perché in base alla location e in base a se si è residenti in Firenze o in provincia, mutano i prezzi del matrimonio pubblico. E in particolare Palazzo Vecchio ha 3 location dentro di sé, che sono la Sala Rossa, che è gratuita in orario di servizio, dice il comune di Firenze, però se almeno uno dei nubendi è residente nel comune, naturalmente. E poi c'è la Sala di Lorenzo, e la Sala di Lorenzo è un po' più caruccia perché costa intorno ai 1200 euro e... proprio a esagerare, il salone dei 500, che costa 5.000, indipendentemente se si è residenti o non residenti a Firenze, in orario di ufficio o in altro orario, quello è il prezzo. Però ci sono anche Villa Vogel, c'è anche il Museo Bardini, Villa Vogel, credo c'è scritto qui, aspettala, quartiere 4. Sì, anche una mia amica si è sposata lì. Oddio, lo sai cosa mi fa pensare? Anche lei ha divorziato, te lo giuro. Anche questa mia amica si è sposata a Villa Vogue. Va bene, allora, diciamo che le location alternative portano sfortuna. Okay. Se vi volete sposare in comune, sposatevi a Palazzo Vecchio, che è meglio, va. Quindi sarebbe interessante fare una statistica e vedere il rapporto tra matrimoni e divorzi a Firenze e dove questi matrimoni sono stati celebrati. Interessante sarebbe, sì. E Villa Vogel, per esempio, com'è? È un bel giardino, sì, oddio, non è che lo veda molto adatto a un matrimonio, perché alla fine, anche se è civile, il matrimonio è sempre un rito, dai, cioè, qualcosa di sacro ci doveva avere, sì, secondo me. E lì è un giardino, c'è una pista di pattinaggio, ci sono gonfiabili dove giocano i bambini, insomma, non lo vedo proprio. Un matrimonio sui gonfiabili! Infatti, per esempio, anche al Giardino delle Rose, no? Quando si sposò sta mia amica, disse: bello, però ma, insomma, un po' di qualcosa di più solenne. Infatti poi chiamò una ragazza a suonare il violino, quindi c'era anche la colonna sonora. Non è servito, ripeto, però insomma, questi matrimoni all'aperto, ecco, non mi emozionano molto, perché forse non c'è un'atmosfera abbastanza raccolta, non lo so. Secondo me, se ti vuoi sposare all'aperto, allora vattene al mare, fa un bel matrimonio sulla spiaggia a piedi nudi. Ah beh, probabilmente abbiamo visto troppi film americani e lì, per ragioni scenografiche, sono costretti a fare le scene dei matrimoni all'aperto, e noi come babbalocchi tutti a sposarsi nei giardini e poi si divorzia, sì o sì, pensate se ci sente il sindaco. Che poi quel matrimonio lì al Giardino delle Rose era all'epoca di Renzi, no? E dissi: cavolo, almeno mi vedo Renzi, perché insomma io sono stata sempre abbastanza renziana. Invece, con mia grande delusione, arrivò un assessore qualsiasi a sposarli, perché Renzi aveva avuto un impegno all'ultimo minuto, e quindi manco il sindaco c'è stato. Quindi farsi sposare dal sindaco è una cosa abbastanza complicata, ma è complicato anche qui da noi, e siamo 20 volte meno che voi. Invece sai un'altra amica che si è sposata, lei è ancora sposata, quindi insomma meno male, si è sposata nello stesso luogo dove ha fatto il ricevimento, quindi un agriturismo, e si è fatta sposare da un amico che si è calato nei panni del sindaco, pur non essendo, perché se insomma tu fai una semplice procedura puoi sposare, quindi ma sapevi? Va. Davvero, e quindi sì, lì andò bene, fu un bel matrimonio che vabbè... Un amico che sposa due amici, anche lì la solennità, non so, insomma, non lo so, un po' di, forse, di distacco maggiore, secondo me ci vorrebbe fra i nubendi e il celebrante, però ognuno fa ciò che vuole. Senz'altro, farebbe l'immagine del prete, il reverendo, il coso, il capitano della nave, come nei film americani, è bellissimo. Ma ora che abbiamo parlato di quattrini e di quanto Palazzo Vecchio, il comune o addirittura Santa Madre Chiesa chiede per un matrimonio, finite le celebrazioni ufficiali, finito il firmare i fogli e i documenti, poi si va alla festa di matrimonio. Bene, a Firenze qual è la festa par excellence, o comunque mediamente di che cosa si accontenta la gente? Ma allora, di cosa si accontenta la gente? Che va, secondo me, di poco, nel senso che molti vanno al matrimonio e poi sperano che il ricevimento duri il meno possibile, che dopo un po' si rompe la gente. E invece, se uno vuole fare le cose in grande, insomma, non si risparmia nulla, e quindi location da favola e aperitivo all'aperto con cono di fritti, olive alla scolana, mozzarella in carrozza, antipasti vari, affettati, e poi tipo tre o quattro primi, due secondi, dolce a cucchiaio, torta nuziale e cascata di cioccolato. Ha visto, no? Proprio la sì, cascata, sì, dove sì, viene giù il cioccolato e tu ci infili la frutta, magari, cioè sei già pieno, non ce la fai più, però quella lì l'assaggi, la frutta infilata nella cascata di cioccolato. Questo è un classico, è un menù classico da matrimonio fiorentino, ma da matrimonio ovunque, forse, da chi vuole fare le cose in grande. Dove insomma, generalmente questi ricevimenti in grande, ma anche in medio piccolo, hanno luogo? Ossia, ci sono dei posti celebri all'interno della città di Firenze e lì si fanno? Non lo so, perché tutti quelli che conosco io si sono sposati sono andati in periferia, perché la campagna si crea un migliore atmosfera. Dillo a noi che ci abbiamo solo quella. Insomma, ci si sposta. Venite voi a fare ricevimenti a Firenze, scusa. Già, come ci passiamo il Capodanno mentre voi lo passate a casa, effettivamente è un'idea. I provinciali si sposano dentro Firenze e i fiorentini si sposano fuori. Il problema, come al solito, quando si parla di Firenze, sono tasse. Qui c'è dei prezzi che già un matrimonio è caro, sgancia 5.000 per il salone dei 500 e il matrimonio diventa carissimo. E invece le chiese quanto costano? Un'offerta libera, suppongo. Tecnicamente sì, credo anche fiscalmente non c'è modo di chiedere una tariffa, a meno che, come dire, la parrocchia non si sia messa in affari, però si vocifera che alcune chiese, particolarmente quelle più popolari, più gettonate, con la lista di attesa più lunga, beh sì, quelle hanno un listino prezzi. Tante tutte sentasse. Appunto. E a questo punto forse la domanda che più mi incuriosisce e che più incuriosisce noi provinciali in senso lato, cioè l'andare vestiti al matrimonio. Essenzialmente qui da noi più o meno funziona così: gli uomini hanno il vestito della domenica, che chiaramente si mettono solo per battesimi, cresimi, comunioni e matrimoni, e quindi c'ha l'odore un po' di naftalina, si vede che è usato poco e magari il taglio due o tre stagioni fuori moda, mentre le donne sono più libere di vestirsi e essenzialmente sono un miscuglio tra la regina Elisabetta, un'aristocratica inglese che va a Ascot, quindi vestita proprio da pagliaccia, e essenzialmente pornostar, non avrei altro modo di definire. bravo, hai definito benissimo queste tre tipologie di abbigliamento, con scarpe coi tacchi che si usano però solo alla messa barra alla cerimonia, e poi dopo allegramente un po' all'inglese se le tolgono. Beh, e esatto. Si mettono le scarpe a ginnastica, che col vestito che c'hanno fanno ancora più brutto. Succede lo stesso anche a Firenze. Sì, guarda, è seccato in pieno queste tipologie. Sì, è la stessa. Da voi c'è una cosa in più: bisogna stare attenti a non aver già messo quel vestito, perché poi c'è sempre, avendo un po' di, insomma, avendo la cerchia di invitati un po' ristretta, perché alla fine in paese vi conoscete tutti, se te ti metti lo stesso vestito che hai messo al matrimonio precedente, che magari, a cui magari ha partecipato anche la cugina del fratello della sposa, e poi ti rivede e poi insomma lo dice al marito del cognato dell'amico, ecco, dice: ma insomma quella c'ha sempre lo stesso vestito, insomma passi un po' male. E quindi si tenta di, cioè voi dovete tentare di cambiare sempre vestito. Solo questo problema adesso diventa un po' di tutti, perché c'è Facebook, ci sono le foto. Allora uno si mette il vestito del matrimonio, per esempio io vado in Sicilia a un matrimonio e poi vado a Firenze sotto casa a un altro matrimonio dove non conosco nessuno. Nessuno conosce quelli che erano in Sicilia, però se su Facebook si vede che io avevo quello stesso vestito, che faccio? Me lo rimetto? Sta male, insomma. Poi la sposa potrebbe dire: ah, quella non si è neanche comprato un vestito nuovo per il mio matrimonio, e allora tocca spendere. Ci sarebbe da domandarsi, insomma, che tipo di sposa è quella che si offende se qualcuno si è messa un vestito che era già stato messo a un altro matrimonio, e dall'altra parte, ma che problema è andare col solito vestito, e se la sposa dice qualcosa mandarla anche a sposarsi da un'altra parte. Comunque per voi è più facile questo, perché lo stesso vestito per gli uomini non nell'occhio, insomma alla fine siete sempre visti tutti uguali, di nero, camicia bianca o di grigio. Invece le donne che... Ah, poi ho scoperto, dopo che una volta andai a un matrimonio vestita di nero, che in realtà gli amici, le amiche della sposa non si devono vestire né di nero né di bianco, sapevi? Ah, sì. Io ho scoperto tardi, una volta ho fatto una mezza figuretta perché ero andata vestita di nero. Allora, il nero dice perché non fa allegria, insomma un po' un vestito più da lutto che altro. E il bianco assolutamente no, perché bianca è la sposa e nessuno può somigliarle, capito? Allora ma vanno questi colori: cipria, verde, azzurro, verde mare, insomma questi colorini un po' più, però magari le donne un po' sovrappeso stavano meglio vestite di nero, Le sbaccava un pochino, effettivamente. No, il nero snellisce. Questi colori un po' più accesi, più vivaci e più chiari evidenziano la ciccia, ecco. Quindi ho visto scene che avrei preferito evitare. Avrei preferito vedere vestiti neri. Delle belle mongolfiere, insomma. Esatto. Oh, tempo fa c'era un matrimonio di cui ho visto solo delle foto, dove sia la sposa che la mamma della sposa che la sorella della sposa avevano uno strascico. Pensa te. Ah. Pensa te come è rimasta pulita poi la chiesa, dai. Oh, effettivamente quello serve anche a passare il mocio sul pavimento. Ho notato io, che mi diverto a fare gli esperimenti con gli esseri umani, cioè non che c'ho il laboratorio e mescolo il DNA, ma proprio vedere di impatto la provocazione non verbale che reazioni suscita, e a un matrimonio quest'anno ho usato togliermi le scarpe. Mi sono tirato su i gambali dei pantaloni come se andassi a pescare, avevo queste scarpe in mano che le ho messe da una parte e camminavo per il matrimonio così scalzo. C'era briachi, gente che vomitava, chi aspettava l'ambulanza, c'era proprio le condizioni di discontrollo più incredibili, ma il fatto di essermi tolto le scarpe è stata una cosa inaccettabile per quasi tutti gli invitati. Pensate. Le donne, ma se le tolgono. Ma infatti, ma forse è concesso solo a noi che dobbiamo liberarci dei tacchi. O forse si puzzavano i piedi troppo, carissimo. Ma eravamo in un giardino. Ma poi la cosa brutta, secondo me, dei matrimoni, molti matrimoni, è che sono quasi tutti d'estate e si muore di caldo. Allora, se uno si leva le scarpe, se uno si volesse levare la camicia, ma insomma, comprendiamolo. Io sarei per tutti per fare matrimonio d'inverno, che poi d'estate ti rovina le vacanze a volte, no? Prenoti il viaggio, oppure vuoi andare al mare, invece che devi fare, devi andare a matrimonio. In effetti. E allora via, leviamoci le scarpe, via, su, facciamo un po' più gli zoticoni anche noi di città, facciamo st'appello. Agli uomini che sono interessati a provare l'esperienza, poi magari contattate la radio e ci dite com'è andata. Provate al prossimo matrimonio o a un matrimonio di uno che vi sta antipatico, che ne so, a levarvi le scarpe e a vedere la reazione che suscita questa cosa nelle persone. Non è una cosa da ridere, il matrimonio è uno di quei momenti archetipici per cui i nostri antenati, i nostri avi, in qualche modo si sono tramandati delle tradizioni che restano quantomeno memeticamente nella nostra psiche, pur noi non rendendosene conto. Quindi ci sta che il levarsi le scarpe abbia un gesto magari infausto, e pertanto, anche se la gente non sa perché, che lo ritiene riprovevole. E l'ultimissima domanda sui matrimoni a Firenze: le liste di nozze. Le liste di nozze usavano un tempo, liste inutili, in cui c'era gente che negozi che campavano solo di quello, della roba che non si sarebbe mai usata, a delle cifre da scoppola proprio. E oggi però questa cosa si è un po' attenuata, è arrivata la moda più meridionale, e cioè quella di fare la busta con il denaro, oppure addirittura la lista di nozze, sì, ma nelle agenzie di viaggio. A Firenze come funziona? Che allora, la busta davanti col denaro è superata, guarda, anzi ora sei passi anche male, se vai a matrimonio con la busta con i soldi dentro. Questa sì, forse da qualche anno non usa più, e poi usava più in paese. Allora, qui in città, cioè, allora, innanzitutto le vecchie liste di nozze con, che ne so, i piatti, queste qui non vanno più, ma lo sai perché? Per un semplice motivo, perché chi si sposa molto spesso già convive, ha già tutto in casa, perché invece prima ci si sposava prima di andare a convivere, quindi c'era da mettere su casa. Quindi il corredo era importante, i lenzuoli della nonna, no? Mia mamma è venuta con il corredo. E infatti, anche mia nonna mi ha regalato un sacco di lenzuoli, di tovaglie. E questi sono classici regali un po' simpo da nonne, dai, diciamo. Che si mettevano in quelle liste lì, insomma, poi non usano più per questo motivo. La casa è già pronta. Allora si passa al viaggio, il viaggio di nozze, quello è... Chi è che non lo fa? Il viaggio di nozze, e ogni invitato regala un... O una quota, così a caso, sì. Oppure ti fanno scegliere, che ne so, vai in viaggio di nozze nel deserto, c'è la giratina in cammello, allora dici, ah, vado in cammello, la giratina in cammello me l'ha regalata mio cugino, che bello, no? Oppure se gliela vuoi regalare metà, mi regala mezzo giro in cammello. Una gobba. E infatti nelle agenzie viaggi c'è questa possibilità di scegliere quale escursione regali agli sposi. Non sapevi questo? Quale escursione regali agli sposi, oppure, che ne so, la tratta d'andata, la tratta di ritorno dell'aereo. Ma è solamente così per facciata, perché poi alla fine fanno un versamento e i soldi vanno all'agenzia e via. Poi c'è chi va oltre questo addirittura e da Liban. Quelli, secondo me, sono i soldi alla fine. Ma sì, alla fine sono soldi, perché cioè, e infatti ho fatto, guarda, 2 o 3 regali direttamente in soldi direttamente sul Liban di uno dei due sposi. E sì, un pochino forse più, no, squallido, come si può dire, però più pratico, dai, indubbiamente. Fiorentini, banchieri, a voi Liban. E via, ecco, e si torna lì. Incredibile, qui da noi se uno si provasse a dare l'Iban, come minimo gli danno la caccia in centro, per cui ancora è blasfemo. L'agenzia di viaggio si sta piano piano imponendo, ma piano piano, più piano che veloce, sai. Anche se oggi si vive in un mondo connesso ai telefonini, comunque la tendenza a essere più conservatori è un po' il classico della campagna e della provincia. Vabbè, allora i genitori di chi è di campagna, se devono fare un regalo, lo fanno fare al figlio, nel senso che non sanno usare internet, devono scegliere una quota nell'agenzia viaggi, e allora tutti i regali saranno un po' accorpati. Famiglia Rossi, così insomma, l'atto di scegliere il regalo l'ha fatto il figlio, i genitori hanno partecipato ma non hanno minimamente idea di come si fa. Allora, forse, insomma, perché non lanciamo un appello a favore dei soldi nella busta, che quelli almeno, insomma, lo sanno fare tutti. Ah, per carità. D'altra parte, sì, è vero, qui noi provinciali del contado toscano fiorentinoide, sì, è vero, siamo provinciali e siamo un po' arretrati e un po' zoccolotti, e questo, ragazzi, guardiamoci in faccia, ma oggi ero con uno speaker di Radio Big World che viene addirittura dalla provincia di Frosinone, era la prima volta che veniva in Val d'Arno e comunque intorno a Firenze, e secondo lui, rispetto a dove abita lui, che è addirittura grande quanto Empoli, il suo paese, gli sembrava d'essere a New York. Sì, che figurati. Ma poi abbiamo parlato di città e campagna qui in Toscana, però bisognerebbe cambiare programma e fare proprio una puntata dedicata. La differenza fondamentale tra i matrimoni sono i matrimoni del sud rispetto a quelli del nord. Queste feste incredibili, queste cose indescrivibili che durano anche 3 giorni, per le quali uno deve prendere ferie e poi dopo deve stare a digiuno una settimana. Laggiù veramente esagerano, ci sono opinioni contrastanti su questi usi, però insomma non è la nostra materia. Ascoltatori di Radio Big World, ratti di campagna come me, ricordate che a Firenze si è inventata la partita doppia, quindi il dare e l'avere, si è inventata la riserva frazionale, l'interesse composto, il conto corrente e le banche, per cui a Firenze 2-3 giorni, cosa, mediamente non si spendono questi soldi. Bene, abbiamo imparato e abbiamo capito che il matrimonio fiorentino è essenziale, è teso a massimizzare la location dove viene realizzato. Attenzione alle location troppo da cartoline, perché hanno il divorzio facile. Ringraziamo Laura per averci guidato così nei meandri dello sposarsi a Firenze. Grazie Laura. Prego, prego. Prossima puntata sul divorzio. Parleremo di divorzio, lo dicevano anche all'inizio degli anni 70 e poi alla fine il divorzio effettivamente l'hanno fatto, anche lì la maggioranza del Parlamento erano in teoria cattolici praticanti e quindi contro il divorzio, fatto sta, il divorzio passò. ringraziamo gli ascoltatori di Radio Big World, perché Laura l'abbiamo già ringraziata. Ringraziamo il sindaco di Firenze, che ora magari ci manda una bella multa, dice perché il nubente video ci trova una scusa. Ma no, gli abbiamo fatto pubblicità alla Sala Rossa, al Salone del 500. Vai tranquillo. E allora sposatevi a Firenze, ma sposatevi nella Sala Rossa, che perlomeno è gratis.